voce. Federica Fracassi legge Sillabari di Goffredo Parise. 19ª puntata. Ricordo. Un giorno un uomo arrivò a Milano, dove aveva vissuto molti anni. Siccome era un poeta, è difficile dargli un'età. Aveva i capelli bianchi, ma aveva modi e passioni di bambino, insieme a una cultura di vecchio. E questo si vedeva dall'essere completamente diverso da tutti i viaggiatori che scendevano le scale della stazione. Da che cosa si vedeva? Da una borsa da tennis, dalla testa grossa e vagante, e dal suo modo agilissimo di scendere le scale. Gli toccò un tassì con un conducente che subito lo chiamò per nome, ma egli non lo riconobbe. Poi di colpo affiorò alla memoria quello stesso uomo ma giovane, magro, un po' matto come molti giovani che vogliono fare i matti e non lo sono che per brevissimo tempo e tuttavia sempre nel ricordo non particolarmente attraente. Faceva parte di una banda di ragazzi che egli frequentava molti anni prima nei pressi di Porta Ticinese dove abitava. «Ma tu sei Abelardo», disse tra sé, ricordando quei ragazzi di origine della bassa Pavese con nomi visigoti e ostrogoti rimasti ancora dal tempo delle invasioni barbariche. Il tassista, sentendo il suo nome, fu di nuovo e subito quasi un ragazzo, nonostante il grosso stomaco e stille di sudore su una fronte adulta di conducente di tassì. Abbracciò il poeta con una stretta alla spalla e parlarono di quella parte di tempo comune a tutti e due, quasi 20 anni prima. I bar, le balere, gli amici comuni, passarono così in rassegna ridendo tanti ragazzi dai 15 ai 20 anni, che ora non erano più tali ma sposati, con figli e sparsi a Milano. Parlarono anche di qualcuno che nel frattempo era morto, ma tralasciarono quasi automaticamente questo argomento che avrebbe annebbiato la foga del ricordo. «E Bertino? Te lo ricordi Bertino? La tua simpatia?» disse Abelardo ed ebbe nello sguardo quello stesso guizzo malizioso che avevano tutti i ragazzi allora innocenti che cominciavano a non esserlo più del tutto. Bertino, nominato, apparve nel ricordo del poeta in tutta la sua fragilità e il suo fascino. Un occhio celeste un po' storto, tutto qui. Ma quali ansie, quali passioni e attese condensava nel ricordo? Stava in un tiro a segno che appariva e spariva dal Luna Park e con questo, con l'apparire della baracca illuminata e con la sua scomparsa, lasciando la traccia quadrata del terreno pestato e della segatura, petardi scoppiati e pallini in uno spazio vuoto, senza Bertino, con questo, è già detto quasi tutto. Il quasi che completa il tutto è il vuoto assoluto, l'assenza, con un cielo blu cosparso di stelle che non potevano certo dare un'indicazione, indirizzo, altri Luna Park della provincia. Al poeta non batté il cuore come una volta. Il cuore pulsò regolarmente come un orologio che non ha niente a che fare con il cuore. Dovette però vincere la vibrazione della voce e infatti disse con calma: «Bertino, chissà dov'è andato Bertino». Come dovesse rincuorarlo, dargli una bella notizia, Abelardo disse concitatamente: «Bertino, ma è qui, qui a Milano, nel centro di Milano, fa il portiere in via Monte Napoleone. La tua simpatia era o non era la tua simpatia?» Queste ultime parole Abelardo le disse senza nessuna malizia, affettuoso e complice come a quei tempi, ma dei due solo il poeta sapeva invece che erano passati gli anni. Gli diede però il numero del palazzo dove stava Bertino. «Lo andrai almeno a trovare, no?» disse il grosso tassista, che da magro e giovane tornò al presente. Noiosamente, Poiché non era più un ragazzo, il tassista volle sapere se c'erano belle donne a Roma, se lui conosceva e frequentava attrici. «E i ragazzi? Ti piacciono sempre?» disse. E qui il poeta riconobbe una domanda indiscreta e inutile, da adulto, che ruppe la confidenza. «Non quelli di Roma». «Eh già, e poi hai la tua età», disse ancora inopportuno Abelardo, con ciò che aveva imparato dall'età adulta, ma erano arrivati all'albergo. Abelardo insistette per offrire la corsa. Si salutarono. In albergo, solo nella sua stanza, l'uomo sentì arrivare un lieve nervosismo sotto la pelle, un'agitazione che, come sapeva, l'avrebbe portato, se non all'angoscia, all'ansia, e riconobbe subito l'origine nella propria immaginazione. Era la baracca del tiro a segno, sfolgorante di luci, di bagliori e di scoppi, tra cui appariva e spariva la figura esile, fatta di ossicini, di Bertino, con il suo occhio celeste e storto. Si alzò dal letto e uscì. Monte Napoleone stava a due passi e si avviò perché voleva vederlo. Trovò il numero del palazzo, era tra i primi, e si infilò nei marmi dell'entrata cercando la guardiola del portiere. Prima di chiedere guardò. C'era qualcuno, con una schiena curva e rotonda come una piccola gobba, chino su un giornalino a fumetti. Il portiere sollevò la testa, pallida, smunta, con capelli radi tra il biondo e il cenere, in cui l'uomo riconobbe immediatamente l'occhio storto. Il portiere, vestito tutto di grigio con un filetto d'oro sui baveri della giacca, ebbe una piccola contrazione della palpebra come l'occhio fosse di vetro e in una specie di sorriso che pareva di fulmine a speranza disse «Mario!» e così dicendo uscì come un razzo dalla guardiola e gli si buttò addosso in un abbraccio. Parlarono stentatamente dapprima, come accade sempre, poi con più calma e ordine. Bertino volle portare l'uomo un caffè vicino, molto elegante, per offrire l'aperitivo o un digestivo, una birra, un caffè. L'uomo accettò il caffè, poi tornarono nella via semideserta di Milano e Bertino riprese a parlare. Bertino era eccitato, sempre di più con il passare dei minuti, diceva «Sono passati bei tempi» e lo ripeteva, come non fossero passati affatto, o sperava, era quasi certo, certo che non erano passati. Ma stavano nei pressi del palazzo e Bertino di tanto in tanto entrava nella guardiola per controllare le spie dei citofoni. «Sei sposato?» domandò l'uomo. «Ho anche due bambini», disse Bertino, come fosse stato interrotto, con una certa delusione nella bocca. «Belli?» Per un momento Bertino restò in silenzio, guardando con il suo occhio per terra un po' perduto, poi disse «Belli, sì, il primo soprattutto, l'ultimo è nato senza una manina». «E tua moglie com'è?» «Non mi lascia mai un minuto, ma è brava». «Però non mi lascia mai un minuto, tra lei, i bambini, soprattutto il palazzo, sono sempre qui. Mi vedi, sono sempre qui tutti i giorni, quasi tutti i sabati e le domeniche, anche a Ferragosto». «E come mai?» «Per gli straordinari, mia moglie ne inventa sempre una da comprare e poi come faccio a lasciare il palazzo e i signori che chiamano e le pulizie? Non sono io che le faccio e no, ci mancherebbe altro, c'è un'agenzia che manda i pulitori, ma con quello che succede oggi devo star qui a sorvegliare». Bertino parlava incessantemente, con delle pause, ma come parlava così pensava. Cosa pensava? Ricordava. E l'uomo vedeva i ricordi in forma di pensiero passare sotto le sue parole, la sua figura. Era sempre fragile, ma non più leggero, assolutamente non più leggero, anzi era fragile e al tempo stesso pesante. Su di lui pesavano quelle che si chiamano, pensò l'uomo, le responsabilità, la moglie, le cose da comprare, i figli, i signori che chiamano, il palazzo, le pulizie e soprattutto il tempo, le responsabilità del tempo, non sue, che passava. Anche l'uomo ricordò alcuni momenti, ma privi di responsabilità, tra cespugli, polvere nei cespugli, fanghiglia ai bordi del Ticino e molte cose ridotte all'essenza, tra i lampi e gli scoppi del tiro a segno e dopo, quando la baracca era chiusa. «E il tiro a segno?» domandò. «Morto mio papà, ho venduta la licenza, e poi non era roba per me girare da un paese all'altro con la carovana, senza nessuna sicurezza del futuro. Io ho fatto la terza media». «E così il tiro a segno non c'è più?» «Non c'è più davvero», disse Bertino ridendo. «Ha preso fuoco, o l'hanno incendiato loro per l'assicurazione. Fatto sta che un incendio ha distrutto il Luna Park. Non l'hai letto sui giornali? 2 anni fa a Varese ne hanno parlato tutti i giornali». «Non l'ho letto», disse l'uomo. «Senti, senti», continuava Bertino, «e poesie ne scrivi sempre?» «Qualche volta», rispose l'uomo con un sorriso, di quella vanità che un tempo voleva mostrare ai ragazzi per attrarre l'attenzione. Bertino gli prese un braccio con una mano che all'uomo parve ossuta. «Senti», disse con una brevissima pausa, al tempo stesso modesta e vanitosa, «e quella che hai scritto su di me ce l'hai ancora?» E così dicendo, senza mutare in alcun modo l'espressione del volto, improvvisamente le lacrime gli scesero sulle guance. «Credo di sì», disse l'uomo, e ricordò qualche parola della poesia, ma forse era un'altra. «E viaggi? Giri il mondo, mi hanno detto». «Qualche volta». Il citofono suonava. Si salutarono. Bertino ebbe un gesto nell'abbraccio di parente anziano e l'uomo, molto più vecchio di lui, di nipote giovane e imbarazzato. Bertino scappò nella guardiola, ma disse: «Mandami una cartolina qualche volta per ricordo». «Va bene», disse il poeta. «D'accordo». Roma. Una domenica d'inverno, al crepuscolo, un uomo che si sentiva straniero, senza però esserlo, arrivò con un rapido dal nord alla stazione di Roma. Già dal treno, col primo apparire della città e delle sue enormi case come innestate sui colli rognosi di rifiuti e di untume, e poi quelle pietre dell'arco di Porta Maggiore da cui sorgevano ciuffi d'erba e alberelli, vide il cielo color violetta e tirato come una seta dall'aria quieta e fredda della tramontana. Sentì, come sempre quando arrivava, la mortale presenza dei secoli e della storia. Uscì dalla stazione per prendere un tassì e a mano che il crepuscolo si trasformava lentissimamente in sera, si trovò sul piazzale. La luce del cielo si fondeva con quella del grande faro centrale ed era qua e là spezzata di riverberi di neon rosa e azzurro. Sotto questa luce, nelle aiuole della stazione, stavano accovacciati, sull'erba bruciata dai turni di umanità sempre distesa, gruppi di donne africane vestite di bianco che chiacchieravano la loro lingua con movimenti continui delle mani scure e magre con unghie laccate di uno smalto color metallo. La luce del crepuscolo scendeva lentamente, ma ad ogni istante si notava una variazione di colore, sempre più verso l'ombra, in cui più lontano le sagome goffe di alcuni soldati italiani e di altri etiopi dai capelli crespi a criniera in gruppi separati già avevano assorbito per primi l'ombra della notte. La luce che le illuminava era un rimasuglio violaceo, ma i loro corpi di lunghi guerrieri senza lancia parevano camminare con l'andatura di cammelli tra i ciuffi delle savane dei loro paesi. I soldati invece si aggiravano intorno alle sagome delle beduine come in cerca di qualcosa per terra. Sempre in quello stato d'animo di estraneità dovuto al luogo, al tempo stesso così buio e luminoso come capita in Africa, l'uomo si infilò in un tassì e attraversò la città che appariva quasi deserta. La luce, l'illuminazione non era ancora stata accesa. Era soltanto quella delle insegne al neon che si fondeva tra rose e blu in un diffuso colore violaceo, dominato da quello più ampio del cielo. L'uomo diede un indirizzo e il tassì percorse velocemente le strade senza autobus, senza ingorghi, senza frastuono e clacson. Forse c'era uno sciopero o erano tutti usciti da Roma i romani. L'uomo ebbe così modo di vedere Roma, dopo esserci stato tanti anni, come non l'aveva vista mai. Quella che vedeva era popolata per lo più da africani. C'erano sì alcuni soldati, ma infagottati in una loro non si sapeva se inquieta o smarrita solitudine canina, gruppi continui di donne beduine nei loro costumi bianchi da cui uscivano delle gambette nere, nervose e anziane, e sulla fronte una crocetta tatuata. Poi ancora uomini di varie razze, tra cui, accanto alle terme di Diocleziano, un gruppo di alti, neri, nerboruti, vestiti quasi d'estate, con leggere tele sui muscoli e come unti d'olio. Avevano il capo rasato e camminavano in un modo al tempo stesso selvaggio e potente che rammentò all'uomo gli schiavi nubiani, i flabellanti dei cortei del tardo impero, i massaggiatori, i poderosi e scivolosi addetti alle terme. Questa impressione, come di una scena di film trasportata nella realtà, non lo lasciò più. Scese al suo indirizzo, portò la sua borsa in casa e fu spinto dalla luce a scendere di nuovo. Ancora non era buio e si sarebbe detto che quella luce violacea non avrebbe abbandonato la città per tutta la notte. Carabinieri giovanissimi, quasi ragazzi, simili a reclute di un esercito mercenario, presidiavano un ministero con il mitra stancamente spianato. Anch'essi parevano stranieri o indossare divise straniere, povere e ingombranti, stanchi e annoiati della ronda solitaria. L'uomo passeggiò sul lungotevere, sempre incontrando gente di colore che camminava e si muoveva come padrona della città. Di tanto in tanto sfrecciava una macchina con dentro dei ragazzi, scuri di capelli e riccioluti anche loro. Uno di quei neri, un etiope forse, con una coperta candida sulle spalle, gli si avvicinò ridendo. Rideva in quel modo in cui ridono tutti gli africani quando debbono parlare con un europeo. Un modo fatto di gesti, al tempo stesso eccessivamente servizievoli, vanitosi e con occhi dalla cornea bianchissima, venata di pazzia. Non parlava italiano, ma con la sua lingua aspirata e accenni offriva la coperta da vendere. 25.000, disse, con una pausa quasi per ogni sillaba, e per ogni sillaba muovendo le mani tra il mendico e lo sbruffone. L'uomo disse di no, ringraziando, ma il nero sorrideva sempre di più e con un movimento pieno di grazia minacciosa, con lentezza ed eleganza, pose la coperta sulle spalle dell'uomo e perfino la drappeggiò, guardandolo da sotto in su con movimenti delle mani lunghe e lucide, come per complimentarsi. L'uomo se la sfilò di dosso e la tese al giovane etiope, che con un bagliore degli occhi parve disgustato. Fece anche una vera e propria smorfia di disgusto e si ritrasse, come per non voler riprendere indietro la coperta. Allora l'uomo la posò sulla spalletta del fiume e riprese il suo cammino. Proseguì lungo il Tevere e si trovò poco dopo ai bordi del Circo Massimo. Ancora non era sera, o non pareva sera, a causa della luce e dei suoni della città, completamente attutiti, come avesse avuto dei tappi alle orecchie. Due o tre volte sbadigliò, come si fa negli aerei, ma non riuscì a percepire suoni più chiari. Forse un brusio, un bisbiglio lungo i bordi del circo, dove tra i cespugli si muoveva qualcosa. Poco più avanti, infatti, uscì una donna con una piccolissima sottana di raso rosso e lucente che non riusciva a coprire nemmeno lo slip. Aveva una lunga parrucca bionda, ma era anche lei nera, e dal modo con cui i capelli si muovevano nell'aria fredda, a ciocche rigide e morte, l'uomo capì che si trattava di un travestito. Intorno a lui non c'era nessuno, eppure il travestito si muoveva con gesti di danza e apriva e chiudeva a cuore la grande bocca rossa. L'uomo proseguì fino alla passeggiata archeologica. Il suo stato d'animo era molto strano, e forse a causa di quella sensazione di orecchie tappate, prima il travestito sicuramente cantava, ma egli non aveva udito alcun rumore, si sentiva ancora più straniero di quanto lo fosse in modo leggero e trepidante, e come liberato da un peso che ora soltanto lo sapeva lo aveva accompagnato tutta la vita. Anche la passeggiata archeologica era quasi interamente sommersa da quell'oscurità violacea che persisteva nonostante i lampioni accesi. Costeggiò le terme di Caracalla, camminava molto piano, attratto dal terreno intorno ai muri e alle rovine. C'erano ciuffi di erba polverosa, cartacce, Kleenex appallottolati, qualche bottiglia di birra. Raccolse un bastoncino e camminando frugava tra quei detriti come si trattasse di trovare il passato che era lì, certamente lì, sotto qualche strato o parecchi strati. Scoprì alcuni preservativi e una catenella, una povera catenella di metallo. Andò avanti. Qualche auto passava mostrandosi per i fari e per lunghi colpi di clacson che però le sue orecchie non percepivano chiaramente. Che fosse diventato sordo? Così, di colpo? Si domandò. Ma al tempo stesso sentì che si trattava di una sordità più diffusa, una specie di narcosi penetrata in tutta la sua persona. Guardò l'orologio. Era tardi, ma lo stesso, come condotto dalla dolciastra passività romana, continuò il suo cammino. Forse l'immaginazione lo aveva colto alla sprovvista ed egli fantasticava con tutti quegli africani che aveva visto dal momento che era sceso alla stazione sulla vita quotidiana di 10, 15, 20 secoli prima. La luce viola era ancora nel cielo e l'uomo vide una prima stella al di là delle mura romane. Di nuovo fissò lo sguardo tra le erbacce e i rifiuti. Vede una macchia di petrolio luminescente con degli stracci vecchi e impastati al suolo, poi frammenti di pietra bianchissima, quasi porosa, certamente molto antica anche quella. Gettò uno sguardo alla passeggiata, dove qualche automobile passava senza nessun rumore. Forse sto per diventare sordo, ma proprio ora, oggi, si chiese, e proseguì sempre lungo le mura, i rimasugli, le cartacce. Di colpo si trovò all'imboccatura di un anfratto, come una rientranza nelle mura in forma di nicchia profonda. Pensò subito a una guardiola, come dovevano esserci, forse anche a guardia delle terme, e pronunciò tra sé la parola tepidarium, che aumentò la rilassatezza dentro di sé. Nella nicchia si accese un fiammifero, ma stando all'imbocco, grazie sempre a quella luce viola, vide che qualcuno stava lì. C'era una donna, molto grassa e quasi distesa per terra, con delle calze arrotolate da sopra fino al ginocchio, e le si vedevano le cosce. Era una donna anziana, con l'aria di massaia e di portinaia romana. In piedi accanto a lei, appoggiato allo stipite della nicchia, un giovane alto con dei gran capelli crespi, di cui si vedeva chiaramente il sorriso mezzo invitante, mezzo disgustato, biancheggiare nel viola. Anche lui era un etiope, anzi somigliava molto a quello incontrato poco prima con la coperta. Con la sua bacchettina l'uomo entrò e non udì, anche se i due parlavano, la donna stando scomodamente sdraiata per terra con il capo sorretto da una mano. Gli parve di udire il nome Ali mentre osservava il vestito lucido e stretto dell'etiope, che fece come un balzo. Tale era la passività della luce viola nel cielo notturno e la persistente sordità d'analgesico, che l'uomo non si rese immediatamente conto che l'etiope lo aveva colpito con un coltello. Gli rivide poi in mano il coltello e gli sembrò un normale coltello da cucina, insanguinato. Poi lo sentì penetrare ancora nel ventre, nel petto, nel collo, mentre i denti bianchi dell'etiope gli stavano vicino.